erano abbinati a quello lì, se ti ricordi. E poi c'ho tante altre cosettine, ma a me non mi ha fatto nulla. C'ho anche un contaviglia. Pure quello c'è, vabbè, c'è anche il posto, altro, perché non ce l'avevo, io penso che non ce l'abbia nessuno, quello che ho lasso io, quel il senso digitale, quello piccolo. Adesso quando riesco a recuperare qualche cosa, qualche apparecchio di quelli cose digitali così, che hanno quello strumento, quelli trasmettono di FM per esempio, perché c'hanno quelle. Quelli sono i primi cifre digitali. E anche un tempo è vero quello. Comunque, no, sono contento che piano piano sto riuscendo a fare qualcosa, poi quando vieni tu, al limite tu mi dici quello che ci devo dare, niente, però mi controlli gli stazioni per mettere questi 5, almeno per accenderli ogni tanto. Ok, va bene, non c'è problema, al limite costruiamo un qualche commutatore di cose di l'antenna, le 5 posizioni si può fare, ma avevo la scatoletta, 5 PL e uno d'ingresso, e si può fare. E il cappagliato, poi quando viene vede la sorpresa, perché intanto sono sicuro che quel microfono della saletta li conosci. Dice io che non riconosco il microfono di saletta, ne portavano a poco questi pisui. 120.000 mi avevano fatto pagare a Bertolino, non ne voleva una, non mi ha lasciato una di meno, cane morto. Pagliata, e cosa ci vuoi fare? Ah, l'altro giorno ho visto anche la tua la parallella. La vedi stesso perché sta lavorando, sta facendo una cosa, pulizia di scale, quindi la vedi stesso, stesso, lì dalle parti sue, c'è tutto lui, col monte, capito? Cappagliappa, no, io l'ho visto lì al monte, lì a Pascoli, non so se te l'ha detto. No, ma sono stato che dimenticato, adesso c'è la testa, te l'ha fatta all'altra, capito, quale ora che sta facendo, esce di notte, e riesce alle 2, da 1 del mattino, capito? Cappagliappa, vabbè, là. Cosa ci vuoi fare? Mi ha detto che si è separata. Sì, è ritornata anche. E io avevo visto che è ritornata. Vabbè. E per i bambini non per altro, perché chi soffriva sono i bambini. E quindi ha fatto la scelta. Si è pagata, ma davvero la tua madre sempre. No, non c'è più. È ritornata all'opera prima lì, in paese adesso, capito? Ma c'è una settimana e mezza. Ah, cappa, torna là è andata. Ehi, vabbè, almeno non ha problemi. E appunto per quello, almeno sta meglio, è tranquilla, e quando va a casa si riposa, non si fa svegliare. Cappa di positivo. Oh, vabbè, io adesso chiamo il grigliolino al telefono, che è in giro con la pistoluccia, e niente. E poi mi dovrò preparare qualcosa per cenare. Oh, vabbè, io saluto tutti quanti per ora. Se coincide più tardi, quando finisco di mangiare, lo riaccendo 10 minuti. Se no, tutte le prossime. Ciao, Popo, facci sentire più spesso. Via d'accordo, non preoccuparti. Avanti, buona cena, salutami a Davide. Non c'è problema. Ci vediamo comunque, tanto io sto facendo aspetto di spesso nel centro storico, quindi se non quello già sono tante altre che l'hai visto. Gatta, gatta, ok, ciao, a dopo, o se no tutte le prossime. Ciao a tutti, ciao Pacchetto. Ciao Mario, vai, buona carica con tutto, perché anch'io sto facendo un po' di carichina, dai. Pupù, se ci sei, ci va adesso, andiamo a dopo, dai. Ok, ciao Mario. Ciao Francesco. La porta. Ma niente, sì, no. Sì. È un bottoncino, vai. Ci vuole, ci vuole. Cappa, cappa. Ma se non ci attira di tanto. Anche quello fa parte. e tutto il sistema. Meglio così. Alla. Ok. Ciucucciù. Sì, la riprendo subito, allora. Adesso faccio un bottone. E ce la riascoltiamo subito. Ciao. Sì, ciao, ci sentiamo dopo. Al limite, ripeto. Ciao.